Darei la parola a Porcelli Francesco, che è il segretario generale della Regione Emilia Alessandria. C'è il contaminuto, ma... 30 minuti, ma 11 minuti, perché un minuto in più in quanto sono tutti generali. Grazie della concessione, Gianni. Dopodiché, sentite, io ho ascoltato la relazione della segreteria di Rosina e devo dire che, assieme agli interventi che sono succeduti, è probabilmente difficile aggiungere qualche cosa. Quindi io non voglio ripercorrere quello che è già stato detto. Si è parlato di territorio, di welfare, di Europa, di previdenza, dell'accordo del 28, di riorganizzazione, di tesseramento, proscientismo e via così. Non stiamo ripetendo queste cose. Vorrei fare qualche altro ragionamento. Sicuramente un primo aspetto è, guardate, io ho avuto più che altro una sensazione che il filmato che è stato prodotto, in qualche modo, ha avuto una sensazione che fosse quasi la parte della relazione. Perché dico questo? Perché devo dire che mi fa pensare a quello che è avvenuto negli anni nella CISL, della FNP, e a quegli anni la FNP stava nascendo, cioè si stava costruendo, non c'era ancora proprio all'inizio. E quindi il primo pensiero che faccio, guardate, che quegli anni non erano anni facili. La nostra organizzazione è sempre stata impegnata nella riorganizzazione. Io mi ricordo ancora quando avevamo i sindacati di prima e di seconda filiazione, gli accorpamenti, e quindi e dietro c'era sempre una spinta per fare queste cose. C'era da parte la spinta economica, sicuramente sempre quella c'è stata, ma c'era anche una spinta che ci faceva vedere un futuro che poteva essere migliore. Pensiamo che le nostre sedi in quell'epoca erano arrangiaticce, non avevamo neanche una scrivania comune, i computer non esistevano ancora, ci scambiavamo le scrivanie a seconda delle parti della giornata. C'era però anche, e di questo poi dobbiamo parlarne anche rispetto all'oggi, quella che è un'altra cultura di fare sindacato, ossia ogni sistema in qualche modo, a volte si parla di cultura aziendale, a volte si parla di cultura di un consenso sociale, anche il sindacato ha una sua cultura quasi in senso antropologico, ecco, di essere in un certo modo, di comportarsi in un certo modo, di fare certe cose. Questo anche al di là degli statuti e dei regolamenti, non è tutto, ci sono anche una serie di regole, di modi di agire non scritti, su cui che sono quelle che ci fanno fare la vita che noi ogni giorno facciamo. Detto questo, come premessa, oggi noi dobbiamo un po' capire, saltando tutto il pezzo che abbiamo già sentito, dobbiamo un po' capire come ci approcciamo, cosa facciamo sul futuro. Dobbiamo pensare che abbiamo sicuramente una serie di problemi. Se faccio un paragone col passato, attenzione, il passato non torna mai. Non torna mai nella stessa maniera, perché alcune cose però sono richiamabili. Io mi ricordo negli anni 80 quello che avevamo noi era una grande credibilità sul territorio, nei luoghi di lavoro in cui andavamo. La gente veniva, malgrado le nostre strutture un po' scassate, comunque da noi. Forse è questo da riconquistare in questo momento. E il fatto che essere iscritti al sindacato negli anni in chiusa del 48. In quegli anni è una cosa quasi indispensabile. Ci sono ancora alcuni paesi d'Europa, anche in ambito, in particolare in ambito nord Europa, che questo è già è un fatto. Quasi tutta la popolazione, magari non i pensionati che rimangono nelle categorie, sono iscritti al sindacato. Questo è l'obiettivo di riconquistare nella cultura del paese, della gente, quello che noi siamo un soggetto indispensabile, utile, perché è questo che ci sta mancando. Questo non è un percorso così facile, perché significa rimettere nuovamente in campo che anche noi dobbiamo ritornare a fare un po' la nostra evoluzione culturale. Non c'è nessun accenno, io non sono sono del mondo cattolico, non sono, quindi non c'è nessun accenno al concetto di rivoluzione culturale cinese, per capirci. Perché dobbiamo pensare che il nostro modo di agire deve rifuggire da certi comportamenti che sono, dal mio punto di vista, non voglio portare il punto di vista di altri, un po' da ufficio, un po' da scrivania, ritornare a essere sindacalisti senza buttare via tutta una serie di aspetti che ci impegnano nel dare dei servizi ai nostri iscritti e tutto il resto. Perché questo è il nostro scopo, fare sindacato. Poi le materie su cui fare, su cui agire, ce l'hanno già detto sia la relazione di Rosina sia tutti gli interventi, non andiamo a ripetere, però significa ottenere su che cosa lo sappiamo bene, è l'elenco, ottenere dei risultati, perché è questo che la gente ci chiede, essere presente a risolvere i loro problemi, a essere capaci a rilevare i suoi bisogni, ma alla fine puntare delle cose concrete, tangibili, e qui si innesta tutto il ragionamento sulla seconda fase, facendo una riflessione. Meno male che c'è stato l'accordo del 28, questo lo posso ripetere, l'affermazione che ho sentito ieri, che sarebbe stato, se non ci fosse stato quello, sarebbe stato un congresso ben diverso, è pienamente assunta dal mio punto di vista. Però è anche vero che facciamo attenzione, mentre ci viene ridata in quella fase credibilità al sistema sindacato, al sindacato dei pensionati, che per il 20% come contenuti, non come impegno, perché è stato molto più alto, e dentro quell'accordo, i comportamenti successivi, anche quelli che non si vedono, che non vengono dichiarati, non sono comunque di ridare al sindacato nostro e agli altri una completa riappropriazione della propria importanza come corpo intermedio. Su questo la strategia evidente del tagliare sempre fondi a CAF e patronati, di cui noi siamo comunque, al di là che ne siano sorti a dismisura i principali soggetti, ci fa capire che da una parte cammina così la visione politica, l'intenzione politica esternata di rivalutare il rapporto con le forze sindacali, di confronto con i blocchi intermedi. Dall'altra però in silenzio di andare a creare difficoltà alla loro esistenza. Come si combatte il sindacato? Non con le grandi intenzioni, non con le parole, non con i discorsi, ma con alcuni fatti. L'aveva insegnato dal mio punto di vista molti anni fa Pannella, ad esempio, quando capì che bastava ritoccare il meccanismo deleghe, e il nuovo deleghe che ci metteva in serie difficoltà. Detto questo, sentite, io vorrei però parlare della nostra riorganizzazione, della riorganizzazione di oggi che coinvolge tutta la CISL, tutti i livelli orizzontali e verticali, dal territorio al regionale, al nazionale. Alcune riflessioni io però devo farmele, questo perché sentite, secondo me c'è, ho finito il tempo, prima di tutto un problema di velocità. Però rendiamoci conto, e questo è un segnale che occorre dare in modo molto pesante, che non è che abbiamo molto più molto tempo. Se dovessi fare un paragone su come noi ci muoviamo, noi siamo in un periodo in cui i mutamenti sul livello nazionale, internazionale, mondiale hanno preso sempre più velocità. Siamo in una strada in cui il traffico è sempre più veloce, intenso, e probabilmente c'è il principio della velocità massima e della velocità minima. Io sento che siamo al di sotto della velocità minima. Non posso tanto accettare in principio che in nome dell'autonomia tutto si rallenti, perché mettiamo in questione il fatto che l'autonomia entra la confederalità. Entro la confederalità significa che ciascuno deve rispettare certe regole che oltretutto si è date, abbiamo votato tutti, anche perché il ritardare una serie di passaggi significa, è un po' come la questione di andare troppo piano su una strada trafficata, significa poi alla fine di essere tamponati, di mettere a rischio l'intera organizzazione. Questo è il problema, non si può più ulteriormente aspettare. Con questo io termino, sono fiducioso perché sono per la CISL, dico viva la CISL, viva la FNP, ma voglio proprio sperare che questa affermazione, che mi sembra un poco debole, del fatto che sia regolata dall'autonomia, per esempio gli accorpamenti delle categorie e così via, voglio proprio sperare che venga superata, perché sennò certe cose noi non le faremo mai. Con questo le dico viva la CIS, viva l'FNP, sono fiducioso per il futuro. Situazioni complesse le abbiamo affrontate tante, a volte siamo arrivati a congressi con le doppie liste nel passato, figuriamoci. Però andiamo avanti e acceleriamo i tempi. Con questo, buon congresso, buone votazioni e prossimi e futuri 4 anni con risultati in questa direzione. Grazie a tutti voi.